GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'assassinio di Mario Ruoso individuato in poche ore, la polizia di Pordenone ci spiega come è stato possibile. Intanto in corso in tribunale la convalida del fermo e martedì sarà la volta dell'autopsia sul corpo della vittima. Auto travolge 5 giovani nella notte a Codroipo. Automobilista fugge dopo l'incidente. Un cittadino ucraino denunciato per omissione di soccorso, rintracciato a casa dalle forze dell'ordine. Non accetta la fine del rapporto. 31enne dell'Alto Friuli spia l'ex fidanzata con il drone. Dopo la denuncia, l'indagine dei carabinieri di Moggio Udinese, sono scattati il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione giornaliero emessi dal tribunale di Udine. Domani 8 marzo, festa delle donne, tante le iniziative in regione. E mentre l'AMNIL fa il punto sugli incidenti sul lavoro a Pordenone, la polizia ricorda gli strumenti che le donne hanno per difendersi. A Gradisca un flash mob contro il DDL sulla violenza sessuale. Il giro del mondo in barca, vela senza assistenza, un sogno che si realizza per Marcello Quirolo, 66enne monfalconese, parteciperà alla regata competitiva Global Solo Challenge. Navigare in solitaria, libertà, mitigare il rischio, una priorità. Queste le sue parole nella nostra intervista. Al via le Paralimpiadi Milano Cortina, stamane è arrivata quinta la nostra Martina Vozza, scesa dalle Tofane, ma ieri sera la sua voce protagonista della cerimonia inaugurale all'Arena di Verona. 12.31, buongiorno da Andrei Marussi, c'è Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Marco Ferrito. Secondo appuntamento col GR regionale della RAI, in primo piano ancora l'omicidio di Porcia, in corso in questi minuti la convalida del fermo dell'autore del delitto, Loriano Bedin, che nella mattinata di mercoledì ha ucciso l'imprenditore Mario Ruoso, patron di Telepordenone. L'autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita martedì pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli, il quale è stato coinvolto fin da subito nelle indagini. È stato infatti lui ad indirizzare gli investigatori verso l'ipotesi di omicidio, escludendo fin da subito la possibilità di una morte naturale. Ma ora vediamo come la polizia di Pordenone ha lavorato per arrivare in pochissimo tempo a individuare l'assassino. Una lunga notte, gomito a gomito con l'autorità giudiziaria per cercare di assicurare il prima possibile alla giustizia l'assassino dell'imprenditore Mario Ruoso. Una notte che non dimenticherò e non dimenticheremo mai. Ripercorre quelle ore per valorizzare il lavoro investigativo della sua squadra il commissario Giusi Valenti, dirigente della squadra mobile di Pordenone. Mercoledì, il giorno del delitto, era il suo primo giorno nel nuovo incarico, il primo peraltro a Pordenone, dopo un anno e mezzo alle volanti. Sono proprio gli agenti a cristallizzare il luogo del delitto, gli agenti delle volanti, come si dice, mentre si attivano gli investigatori della mobile. Intanto sulla scena del crimine lavorano scientifica di Pordenone e di Padova. Il medico legale Cirnelli, che settimana prossima eseguirà l'autopsia, indirizza subito gli investigatori verso l'ipotesi di un fatto violento, escludendo fin da subito la possibilità di una morte naturale, di una caduta accidentale. L'ascolto dei primi testimoni indirizza gli inquirenti sull'orario del delitto. Permette di partire con una pista. Inizia l'attività tecnica con la visione delle telecamere, anche quelle comunali. Le prime immagini non sono nitidissime, poi si trovano immagini più chiare. Determinante quindi la conoscenza del territorio da parte degli agenti. Un collaboratore di Valenti riconosce Loriano Bedin, l'ex storico collaboratore di Ruoso. Accanto all'attività tecnica, quella umana. Si analizzano le celle telefoniche, posizionano l'indagato sul luogo del delitto. I riscontri a quel punto iniziano a essere oggettivi, non risultano liti tra i due prima dell'omicidio, aggiunge Valenti. Le prove portano l'autorità giudiziaria a emettere il decreto di perquisizione che scatta alle 4 del mattino. Erano degli indizi così chiari che hanno consentito ai procuratori di emettere il decreto di perquisizione. Il resto è cronaca giudiziaria. Partita dall'attività della procura e di una questura in cui protagoniste sono due donne, Giusi Valenti, appunto, e la questora Graziella Colasanto. Non è merito mio, conclude Valenti, se siamo arrivati a questo obiettivo, ho il privilegio di avere accanto a me collaboratori validissimi. Il risultato è la punta dell'iceberg di un lavoro quotidiano e costante. Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 5 pedoni investiti nella notte a Codroipo, per fortuna senza gravi conseguenze, da un automobilista che poi si è allontanato senza prestare soccorso ed è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. L'investitore è un cittadino ucraino che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, travolgendo 5 giovani che si trovavano lungo la strada. Sul posto 3 ambulanze e 2 mezzi hanno trasportato i feriti all'ospedale di Udine, mentre un'altra ambulanza li ha accompagnati all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il bilancio complessivo è di 5 feriti, fortunatamente con conseguenze lievi. 3 sono stati classificati con codice verde e 2 con codice giallo. Tutti i ragazzi, dopo gli accertamenti sanitari, sono stati dimessi poco dopo. Grazie alle prime informazioni raccolte, l'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, nella zona di via Pevaris. Per lui è scattata la denuncia per fuga dopo sinistro stradale, con feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, spiava l'ex fidanzata con l'ausilio di un drone, sorvolando i luoghi frequentati dalla ragazza. Ai comandi del velivolo radiocomandato, dotato di videocamera, un 31enne residente nell'Alto Friuli. Dopo l'indagine dei carabinieri di Moggi Udinese, per lui è scattata la misura cautelare del divieto d'avvicinamento alla donna e l'obbligo di presentazione giornaliera disposti dal Tribunale di Udine. I fatti risalgono al periodo tra il 2023 e il 2025. In seguito all'interruzione della relazione tra i due, la ragazza continuava a ricevere dall'ex fidanzato richieste insistenti di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. Poco dopo ha notato la comparsa del drone nei luoghi che frequentava abitualmente. Una presenza sempre più inquietante che i carabinieri, dopo la denuncia della ragazza, hanno collegato all'ex. A confermare l'ipotesi investigativa, la memoria del drone che custodiva i dati del sorvolo, diverse fotografie scattate all'insaputa della donna, nonché l'indebita divulgazione da parte dello stalker delle immagini così acquisite ad amici e conoscenti. Domani 8 marzo, festa internazionale delle donne, tanti gli appuntamenti dedicati a questo giorno. Ieri nella Sala della Lupa di Montecitorio, l'AMNI, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha presentato lo studio Donne e Precariato, una scelta imposta. Siamo all'80° posto nel mondo in tema di equità tra lavoratori e lavoratrici, informa il World Economic Forum. In Italia le disparità sul lavoro sono ancora molteplici. Nel 2024 solo il 13,5% delle donne ha ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato, in più anche a tempo ridotto. Insomma, donne ancora precarie e fragili in ambito lavorativo, sottoposte però a tutti i sacrifici e i rischi che un'occupazione comporta. Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione dei Lavoratori Mutilati ed Invalidi a Montecitorio, su iniziativa della deputata Chiara Gribaudo, ha presentato uno studio sul lavoro femminile. La vita di precarietà, la vita di fatica lavorativa, di salari bassi, naturalmente si riversa anche sulla pensione delle donne, che quindi è estremamente molto bassa. L'evento è stato dedicato a 3 donne vittime sul lavoro: Luana D'Orazio, morta in fabbrica a Prato, e a Sara e Aurora Esposito, decedute in una fabbrica di fuochi di artificio ad Ercolano. Resi noti i dati sugli infortuni delle donne sul lavoro: 216.779 in tutta Italia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Toscana, le regioni con maggiori infortuni. Se tu hai necessità di lavorare perché devi mantenere i figli, molte volte devi scendere, diciamo, a dei compromessi. E sempre l'ANMIL di Pordenone, questa mattina un appuntamento lo ha proposto a Porcè, al Castello di Guardia, e si è parlato di infortuni sul lavoro, molto spesso riguardano le donne. Capiamo perché con Pietro Delben, consigliere ANMIL di Pordenone. Da uno studio che è stato presentato ieri alla Camera dei Deputati emerge un dato forse il più evidente. Al di là che gli infortuni purtroppo crescono sempre, e oltre agli infortuni anche le malattie professionali, ma un dato che mi sento di citare oggi, visto che domani c'è la Giornata Internazionale della Donna, sono gli incidenti in itinere che le donne subiscono, che fanno riflettere. Non vi do il dato in termini numerici perché ha poco senso, ma vi posso dire che rispetto agli uomini è di gran lunga superiore. E questo ci deve far riflettere su quello che fa la donna. La donna non lavora e basta, parte alla mattina, si sveglia e deve pensare nel nostro sistema a organizzare la vita familiare. Non dimentichiamo che non è solo la colazione, ma portare i figli a scuola, e dopodiché deve entrare nel mondo del lavoro e deve mettere tutta se stessa per poi smettere alla sera di lavorare, e ovviamente con il pensiero di riorganizzare la famiglia alla sera, e quindi è sottoposto a uno stress non da poco, che si evidenzia nel gran numero di incidenti che succedono in itinere, dovuti perché sono donne che sono soggette allo stress più di quanto lo possano essere gli uomini. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Gradisca di Sonzo questa mattina si è tenuto un flash mob contro il DDL Buongiorno sulla violenza sessuale, che sostituisce il consenso con la volontà contraria all'atto sessuale, introducendo il concetto di dissenso. Senza consenso è stupro, è lo slogan della manifestazione, che ha avuto il patrocinio del comune di Gradisca e di diverse associazioni del territorio. Una cinquantina le partecipanti alla sit-in di protesta contro il DDL Buongiorno in Piazza Unità, la principale piazza di Gradisca di Sonzo. L'evento è organizzato da due centri antiviolenza della zona, Da Donna a Donna e SOS Rosa. C'è anche il collettivo Chiave della Voce, l'AMPI, l'Unione Donne in Italia e Donne in Rete contro la Violenza, e anche la rete di associazioni di volontariato Hauser. Protestano contro il DDL della senatrice Giulia Buongiorno, per il quale chi tace acconsente anche in caso di violenza sessuale. Una legge che le femministe definiscono senza mezzi termini a favore degli stupratori. Carmelina Calivà, presidente del centro antiviolenza Da Donna a Donna. Si rischia di approdare un modello basato sul chi tace acconsente. La considerazione della situazione e del contesto è una formulazione che rischia di aprire ad alibi e giustificazioni riconducibili al non avevo capito. Anche il no diventa oggetto di valutazione, di interpretazione in base a situazione di contesto. Il DDL rappresenta un arretramento culturale e giuridico, perché introdurrebbe un'inversione dell'onere della prova che finirebbe per gravare sulle sopravvissute. Gradisca ha una lunga tradizione di lotte per i diritti delle donne. Domani, 8 marzo, tutti a Monfalcone, in piazza Falcone Borsellino, per il cammino delle donne alle 10:30, per ricordare le lotte delle donne di ieri e costruire quelle di oggi. Gradisca di Sonzo, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sempre in occasione della giornata internazionale della donna, oggi e domani sotto la loggia del municipio di Pordenone, la Polizia di Stato ha allestito un gazebo informativo per incontrare e ascoltare la cittadinanza. Gli agenti della questura, del capoluogo della destra Tagliamento, forniscono informazioni su cosa fare se vittime di reati come stalking, revenge porn, violenza domestica. Vengono spiegati diversi strumenti come l'ammonimento del questore, misura di prevenzione che punta a garantire una tutela rapida della vittima anche in assenza di un procedimento penale in atto. Gratuito, non serve avvocato, l'istanza può essere presentata in qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o stazione dei Carabinieri e prevede la punibilità d'ufficio in caso di reiterazione delle condotte. Il numero 1522 offre immediato sostegno telefonico da parte della Rete Nazionale Antiviolenza. Segnalazioni anche anonime e con la possibilità di allegare foto e video sono possibili tramite l'app della Polizia Upol. 12.43, il tema della guerra ibrida russa e dei suoi effetti in Italia. Nella nostra regione questa mattina a Udine la presentazione del dossier di Europa Radicale, la peste putiniana. La Russia ha avviato una guerra ibrida contro l'Europa e l'Italia ne è il ventre molle, con il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più esposte alla propaganda putiniana. E questa è la tesi dell'associazione Europa Radicale, che in anteprima nella sala Iace del comune di Udine ha presentato il dossier Peste Putiniana, un censimento delle proiezioni di documentari di RT, l'ex Russia Today, emittente sanzionata dall'Unione Europea subito dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina. Ad oggi tutti gli eventi con i documentari russi sono stati 192 in Italia, di cui 24 annullati a seguito dell'intervento di Europa Radicale. Secondo l'associazione si tratta di proiezioni illegali sulla base del regolamento europeo che ha bandito le testate RT e Sputnik finanziate da Mosca per le falsità diffuse nei loro contenuti. Sono state 21 le proiezioni conteggiate in Friuli Venezia Giulia, regione superata solo da Emilia Romagna e Toscana. In un caso in particolare, al Kulturni Dom di Gorizia, sono entrate le telecamere stesse di RT per la realizzazione di un servizio televisivo sull'appuntamento. Il secondo ospite più presente a livello italiano è stato il consigliere comunale di Trieste, Ugo Rossi, che, commentando l'iniziativa di Europa Radicale, fa sapere di non aver preso un rublo, di non aver ricevuto alcuna chiamata per organizzare questi eventi. Presente all'evento l'assessore lavori pubblici del comune di Udine, Ivano Marchiol, secondo cui la democrazia si basa sulla condivisione dei fatti e delle opinioni diverse che si costruiscono su fatti. Oggi c'è chi mescola la verità con la menzogna. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'escalation del conflitto in Medio Oriente sta generando forte preoccupazione tra le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme il presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia, Massimo Paniccia, che segnala l'aumento improvviso dei costi dell'energia e dei noli dei container dopo l'attacco statunitense all'Iran. Secondo l'osservatorio dell'associazione, in pochi giorni il prezzo del gas è salito di circa il 25% e quello del petrolio del 6%, con ripercussioni immediate su trasporti, logistica e costi di produzione, soprattutto per le imprese energivore. Doppia emozione per Martina Vozza ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Ieri sera la lettura del giuramento dell'atleta nella cerimonia in cui Mattarella dall'Arena di Verona ha aperto la manifestazione a cinque cerchi e poi questa mattina la prima discesa libera nella categoria ipovedenti sulla pista ampezzana delle Tofane guidata da Ilenia Sabidussi. Martina è giunta al quinto posto in una gara dove l'Italia ha conquistato la sua prima medaglia ai Giochi Paralimpici con l'argento di Chiara Mazzella. Anche alle Paralimpiadi di Milano Cortina gli atleti della nostra regione continuano ad essere protagonisti nelle cerimonie dei giochi. Dopo la sappadina Lisa Vitozzi, che era stata scelta come portabandiera della delegazione azzurra alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi per i suoi straordinari risultati nel biathlon, evento che si era svolto 12 giorni fa all'Arena di Verona, ieri a sorpresa, sempre nell'antico teatro Scaligero, a leggere il giuramento per gli atleti paralimpici è stata scelta la nostra Martina Vozza, atleta ipovedente di San Canzian di Sonzo, che in collegamento da Cortina, assieme alla snowboardista Jacopo Lucchini, un allenatore e un giudice di gara, ha solennemente letto i principi che animano la competizione paralimpica. Un onore per l'atleta bisiacca davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alle massime cariche dello Stato e ai vertici del Comitato Paralimpico Internazionale in una suggestiva cerimonia focalizzata su movimento, bellezza e inclusione. In pista stamane la Vozza ha portato a casa un dignitosissimo quinto posto nella discesa assieme alla sua guida, la tarvisiana Ilenia Sabidussi. I 7 secondi e 99 centesimi dalla vincitrice, l'austriaca Aigner, non devono trarre in inganno perché la Vozza arrivava da un grave infortunio della scorsa stagione. Torno dall'infortunio e fino a qualche settimana fa non pensavamo neanche di correre la discesa. Invece abbiamo fatto le prove, ogni giorno ho abbassato un po', mi sono trovato un po' di confidenza, abbiamo fatto solo una giornata con gli sci da discesa quest'anno, quindi sono comunque contenta di aver migliorato ogni prova e anche oggi in gara. Un risultato a cui ha contribuito la sua fedele guida, la tarvisiana Ilenia Sabidussi. Siamo contente perché siamo arrivate qua molto in sintonia, molto felici insieme. Nonostante qualche alto e basso durante la stagione, siamo arrivate qua vicine, unite, e questo sicuramente fa tanta differenza. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. E continuiamo con lo sport, il calcio. Dopo la vittoria con il Tris alla Fiorentina, l'Udinese prova ad allungare la striscia positiva e chiudere definitivamente un periodo decisamente negativo. Tra le sconfitte consecutive, prima del capitolo con la Viola. Diametralmente opposto il discorso in casa della Dea. Lo scivolone contro un Sassuolo in 10 della scorsa giornata, 2-1 il risultato in favore degli emiliani, ha stoppato 3 vittorie consecutive. 10 le lunghezze della squadra di Palladino sui bianconeri di Runiai. Atalanta in corsa in Champions e con la testa al Bayern corre anche per la zona coppe distante in classifica 2 punti. Contro la Fiorentina abbiamo dimostrato di poter funzionare come squadra grazie anche all'apporto di chi lavora attorno ai giocatori e ai nostri tifosi, le parole del tecnico dei friulani che non potranno contare su Bertola e Solè. In C impegno lombardo anche per la Triestina, calcio d'inizio alle 17:30 sul campo dell'Union Brescia, seconda forza del campionato. Ci crede Marino in una situazione che dal punto di vista classifica campo società è pressoché irreversibile. Sabato che vede il ritorno della Serie A di basket, Trieste torna in campo alle 20 a Reggio Emilia, i biancorossi affronteranno la Una Hotels, la sfida che apre un ciclo di partite molto importante per il proseguo del campionato. I dubbi sulla presenza di Rose Brooks, l'andata si è risolta ai supplementari in favore di Trieste. Apu Udine sarà in campo domani alle 17:30, al Pala Carnera arriva Varese e stasera alle 20 in campo in A2 anche Cividale che ospita Forlì, Ducali ancora in piena lotta playoff, forlivesi invece lottano per la salvezza. Pallanuoto nei quarti di finale della Final Six di Coppa Italia femminile, in svolgimento nella piscina Scandone di Napoli. Le orchette alla Bardate hanno superato il Cosenza pallanuoto per 13-9, conquistando la semifinale dove affronteranno la SIS Roma. La gara stasera alle 18 con la diretta streaming su Rai Play. Per la Serie A1 maschile la squadra alla Bardata affronterà in trasferta il Telimar Palermo. Si gioca nella piscina comunale di Terrasini con inizio alle ore 15. La vela, Marcello Quirolo, 66enne di Monfalcone, si è qualificato alla Global Solo Challenge, il giro del mondo a vela in solitaria, senza scali e senza assistenza, con partenza nel 2027 da Vigo. La qualificazione è arrivata dopo una prova di 2000 miglia in solitaria, affrontata con una barca non da regata ma adatta per l'impresa. Oggi allo Yacht Club Timavo di Monfalcone alle 15.30 è prevista una cerimonia di riconoscimento. Marcello Quirolo ci spiega le motivazioni che lo spingono ad affrontare un viaggio così ambizioso in solitaria. Sentiamo. Io sono sempre stato amante del mare, amante della vela in solitario, e mi trovo bene quando sono in barca da solo e quando veleggio. Però purtroppo non è che ci sono molte regate in solitario qua in Italia. Adesso sta prendendo piede, molto in Francia, ma in Italia non molto. Ho visto che nel 2023 una persona di 70 anni praticamente l'aveva fatta su una barca simile alla mia. Com'è la sua barca? Ce la descriva. Parte come una barca normalissima, che è un Elan 37 a vela. Piano piano me la sono modificata per le mie esigenze, che sono appunto quello di navigare in solitario, e ultimamente proprio per poter affrontare questa regata, perché ha delle regole molto ristrette per quanto riguarda la sicurezza, quindi ho dovuto fare parecchie modifiche sulla compartimentazione, sull'impianto di sentina, sulla sicurezza. Cosa vuol dire invece per lei la navigazione e la solitudine? Ah beh, la navigazione, il mare, libertà, e poi anche la navigazione insieme alla solitudine è riuscire a capire tante cose che non riesci a capire, e a capire anche i tuoi limiti, e poi capire che tutte le cose che tante volte si danno per scontate quando sei lì non sono così scontate. E com'è hanno preso questa decisione i suoi affetti più cari? Mi supportano, mi hanno sempre supportato bene, molto bene. Diciamo che con loro si viaggia, ho viaggiato tanto, e quindi penso che sanno come vado per mare, quindi penso che abbiano anche abbastanza fiducia. Sanno che non è un salto nel buio, sto facendo le cose il più possibile con cognizione di causa. Certo, i rischi ci sono sempre e non si possono mai azzerare, però si cercano di ridurre il più possibile. E ora gli appuntamenti del weekend della TGR. Dopo 4 anni di guerra e di lutti, l'Ucraina è ancora lontana dalla tanto desiderata pace. La crisi in Bulgaria si aggrava anche per i metodi violenti usati dalla polizia durante le manifestazioni. Un thriller dello scrittore montenegrino Nikola Idis offre una possibile verità sull'orrore dei Sarajevo Safari. Fa discutere una mostra a Danzica sui polacchi arruolati nella Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. La popolarità del Festival di Sanremo in Albania, una passione che abbatteva i muri della politica. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura parla di agricoltura di montagna, come cambia dall'allevamento alla viticoltura ai prodotti antichi. A seguire aglio, rosmarino, salvia e poi lavanda e sapone, il profumo delle donne nelle case coloniche friulane. Come scegliere piantine di qualità da trapiantare nell'orto, a cosa badare durante l'acquisto. Produrre birra in casa, hobby che conquista tanti appassionati, ma serve attenzione ai dettagli. E ancora conservazione industriale, deperibilità come farsa, riflessione su cibo e arte contemporanea. Mimosa, simbolo profumato dell'8 marzo, come coltivare al meglio questa pianta. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12.54, il tempo, cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 11 gradi, Gorizia 16, Udine e Pordenone 14 e 5 decimi, Tolmezzo 13, Tarvisio 11 gradi e 5, Forni di Sopra 11, Sappada 5, Sull'Ussari e sullo Zoncolan 4 gradi e 5 decimi, Lignano 13 e mezzo, grado 8 e mezzo. Le previsioni oggi pomeriggio: cielo sereno con possibili foschi o nebbie lunghe la costa, sarà una giornata mite in pianura con temperature massime che potrebbero sfiorare anche i 20 gradi, zero termico intorno ai 2200 metri di quota. E domani al mattino sereno, dal pomeriggio variabile per il passaggio di velature, su bassa pianura e costa saranno possibili foschie o nebbie notturne in rapido dissolvimento già di primo mattino in pianura, mentre lungo la costa occidentale tra Lignano e Grado potranno essere più persistenti. In chiusura alcuni appuntamenti culturali. La personale dell'artista monfalconese Paolo Pizzini, inaugurata questa mattina la piccola permanente dell'angolo di Maritani allo storico Caffè Carducci di Monfalcone. La mostra sarà visitabile fino al 19 marzo. Ultime due giornate della mostra, un infinito intrattenimento della pittrice Francesca Pozzobona alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste. Sono previste visite guidate oggi alle 18 e domani alle 11 e alle 18. La mostra personale Vuoto alla soglia di Marco Tracanelli sarà inaugurata alle 17.30 questo pomeriggio a Sesto Arreghena. L'iniziativa è patrocinata dal Comune, dalla Proloco e dall'Associazione Culturale Sexto. E presso la libreria Feltrinelli di Trieste, in via Mazzini, alle 18 si terrà l'incontro a cura di Debbie Zumbo, l'esperienza di lettura condivisa, leggere ad alta voce a bambini e anziani. L'incontro è rivolto a insegnanti, genitori e adulti di riferimento e a chiunque interessi la lettura. Sono le 12.56, si conclude qui il nostro GR, il prossimo appuntamento sarà alle 14.30, mentre l'edizione della sera sarà posticipata verso le 18.45 nell'intervallo della partita Atalanta-Udinese. Ed è tutto, da Andrea Marussi c'è Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Marco Ferrito, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.